Friuli nel mondo. La Val Resia. 27ª trasmissione dedicata agli emigrati. Gli emigranti della Val Resia, la più bella delle Alpi Giulie, non troveranno più al loro ritorno nella piazzetta di Prato, il maggiore dei paesini che la costellano, l'antichissimo tiglio sotto cui solevano sostare in attesa della messa. Né quell'albero frondoso sarà sfiorato a mezz'agosto dalla processione nella solennità dell'Assunta, né a primavera le case circostanti saranno invase dall'inebriante profumo della sua fioritura. Il tiglio, alla cui ombra sedevano gli anziani e i gastaldi per trattare gli interessi religiosi e civili, è stato abbattuto. La sua corteccia non fornirà più le minuscole schegge che i partenti portavano con sé, quasi talismano propiziatore. Abbattuto per ragioni urbanistiche, grazioso eufemismo per giustificare l'arresto delle tradizioni persino in un paese remoto come questo, povero di mezzi, non di volontà tenaci e di bravura artigiana. Ne è prova l'avviata costruzione, proprio nel capoluogo, di una scuola professionale, a cui gli operai sono lieti di offrire prestazioni gratuite, imitati dal sindaco in funzione di cuoco e dal parroco fattosi cariolante. L'albero era il simbolo vivente di tanta probità, palese nei verbali redatti sulle ginocchia durante le vicinie subtileo o subfrasca. Siamo alle prime notizie sulla pieve di Santa Maria Assunta, inizi del secolo XI. Ma i resiani occupavano la valle fin dal secolo VI, risaliti dalla pianura dove s'erano fissati nel corso di migrazioni più remote. Lingua, costumi, usanze dovevano conservare in quest'oasi etnica caratteristiche uniche, inconfondibili. Per la lingua, ad esempio, i glottologi, pur riconoscendole la derivazione dal ceppo slavo, accennano all'armonia vocalica che deriverebbe da qualche lingua turanica. Sotto le pareti del Musi permangono da allora ninne nanne che si intonano alla voce dei torrenti. Suonate, suonate campani, che le mucche stanno per arrivare con le catene arrugginite, piene di lumache. Da cravere io nada mu, ca cravere io nada mu. Miro ya vi che ti ne, miro ya vi che ti ne. Bimbi dagli occhi azzurri come le genziane le ascoltano nelle rustiche cucine presso i davanzali fioriti di gerani. Ti cantiamo perché tu ti possa addormentare. Malinconie ataviche che si riscontrano nelle filastrocche, nelle nenie delle vecchie di Lischiazza dal volto rugoso come le pareti dei monti, nei canti d'amore che le fienaiore si rimandano da balza a balza. Pioggia o siccità, sempre verde è la malga a mezza montagna e vi crescono rose e garofani selvatici. malinconie insanabili che il suono della campana di San Giorgio di Resia, la più antica chiesa della valle, riaccende ogni sera nel raccoglimento dell'ave. Malinconie che ogni venerdì si rinnovano nell'invocazione alla Sveta Mater della Via Crucis. Santa Madre, defa, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.